Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. In Italia si acquistano ogni anno 30 milioni di pneumatici per autovetture e circa 2 milioni per autocarri. Un giro d'affari consistente che genera però anche fenomeni di illegalità. A Roma, nelle scorse settimane, è stato presentato un rapporto sul tema realizzato dall'Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e dalla piattaforma Cambio Pulito, grazie alle segnalazioni degli operatori del settore. Mancato versamento del controllo ambientale per la raccolta, evasione dell'IVA, vendita illegale online, officine abusive. Sono queste alcune delle irregolarità emerse. Situazioni che hanno ripercussioni sull'erario, sull'ambiente, ma anche sulla sicurezza. Considerando che sul mercato vengono immesse ogni anno migliaia di gomme contraffatte che possono essere una minaccia per la sicurezza stradale. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi di pneumatici, un tema particolarmente importante non solo per il mondo dei trasporti, ma per tutti i consumatori, tutti gli automobilisti, perché forse pochi lo sanno, ma attorno al mondo degli pneumatici c'è anche un mercato illegale con problemi di sicurezza, problemi di falsi e problemi di controlli che devono essere operati con attenzione appunto su questi prodotti. Problemi dei quali parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è il direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, proprio qualche settimana fa è stato organizzato un incontro a Roma sui flussi illegali di pneumatici proprio per denunciare ancora una volta la pericolosità di questa pratica, ma anche l'imprudenza di molti consumatori che si affidano o a gommisti non qualificati o addirittura ad internet per acquistare gli pneumatici, ovviamente non rivolgendosi a strutture e a negozi online seri, ma a produttori poco conosciuti. E alla fine che cosa succede? Alla fine succede che le sorprese possono essere tante e diverse. Beh, innanzitutto si può incorrere incautamente in un incauto acquisto, cioè aver acquistati e montati pneumatici che magari non sono conformi alla nostra carta di circolazione, quindi non sono adatti al nostro veicolo e quindi possono mettere in discussione quelle che sono le caratteristiche prestazionali del veicolo stesso. Ma non è solo questo, diciamo, banale, dico, non conformità, basta semplicemente avere davanti agli occhi la carta di circolazione e controllare che i parametri dimensionali e le caratteristiche prestazionali del pneumatico siano esattamente quelle riportate in carta di circolazione. Ma poi occorre essere un po' più tecnici nel rendersi conto se un pneumatico ha dei marcaggi che sono consoni. Un esempio per tutti, visto che siamo in un periodo invernale e quindi molti consumatori hanno già montato o stanno per montare, perché hanno semplicemente acquistato un veicolo nuovo, dei pneumatici invernali. Ora tutti credo dovrebbero sapere che si distinguono questi pneumatici da un marcaggio M+S, questo è l'obbligo di legge, ma se si vuole avere un pneumatico effettivamente performante su neve, è bene che quella marcatura M+S sia accompagnata da un pittogramma alpino. Cosa vuol dire? È una montagna a tre picchi, quindi una montagna, tre punte, di cui quella centrale più elevata, con al centro un cristallo di ghiaccio. Questo sta a significare che quel pneumatico ha superato un test omologativo su neve e quindi ha caratteristiche prestazionali specifiche per quell'impiego, quindi la scelta ottimale. Attenzione, perché abbiamo trovato, ahimè, sul mercato anche qualcuno che si è inventato una marcatura taroccata, come addirittura si vuole dire. Ahimè, questo è successo e sono in corso ovviamente gli accertamenti e i procedimenti necessari, stiamo parlando di un marcaggio molto simile, vale a dire anziché una montagna con 3 picchi, una montagna con 4 picchi, fatti in maniera completamente diversa, con un cristallo di ghiaccio diverso o addirittura senza cristallo di ghiaccio. Quindi allora attenzione, se avete acquistato o avete montato degli pneumatici che invece di avere il simbolo con i 3 picchi ne hanno 4, beh, rivolgetevi subito ad un gommista specializzato, perché probabilmente quei pneumatici sono poco sicuri. A questo proposito, voi effettuate spesso anche delle operazioni con le forze di polizia, certo, per sgominare questo tipo di fenomeni? Ma certo che sì, allora marcaggi non conformi come quello di cui parlavamo prima, non si può dire a prima vista che rappresenti un pneumatico pericoloso, ma certamente non è stato controllato da nessuno e quindi ahimè senza un controllo è bene smontarlo, quindi corretto il messaggio. I controlli vengono fatti dalla polizia e noi condividiamo abitualmente ogni anno iniziative di controllo che ovviamente fanno le forze dell'ordine e sistematicamente vengono trovati a circolare vetture, mezzi pesanti che hanno pneumatici lisci, mediamente da un 8-10%, quindi una quantità del tutto significativa, piuttosto che pneumatici che sono tagliati, quindi che hanno delle bozze, delle ernie, dei rigonfiamenti sul fianco, che sono l'anticamera del cosiddetto cedimento strutturale, cioè in buona sostanza lo scoppio, cioè sono pneumatici che hanno subito un urto contro uno spigolo, un marciapiede, una buca, si è lesionata la parte esterna, quindi certo, la spalla del pneumatico, si sono rotte le tele di rinforzo e quindi quel pneumatico è in una fase di sopravvivenza fino a quando non ce la farà più e a questo punto scoprirà. Eccederà. Ecco, proprio a questo proposito, lei ha parlato di mezzi pesanti prima, quindi in questo caso le attenzioni devono essere raddoppiate, anche perché l'esplosione di un pneumatico, di un mezzo pesante, e purtroppo c'è stato un caso di cronaca proprio qualche settimana fa a Bologna, causa danni pazzeschi, la persona è infatti morta sul colpo ovviamente. Assolutamente sì, questo è un altro malcostume che sistematicamente dà luogo ogni anno a 2, 3, 4, 5 decessi, cioè in buona sostanza le gomme da camion, le gomme da mezzi pesanti hanno delle pressioni di gonfiaggio 8-10 bar, quindi una bomba di fatto, per cui per effettuare la semplice operazione di gonfiaggio occorre utilizzare la massima attenzione e da sempre era prima obbligatorio, oggi fortemente consigliato, di utilizzare una gabbia di contenimento oppure non stare certamente dove avviene il gonfiaggio. Laddove il pneumatico dovesse esplodere, i rischi sono veramente significativi, si può arrivare alla morte della persona sul colpo oppure comunque a lesioni veramente importanti, la perdita dell'udito è quasi garantita, quindi certamente per il mezzo pesante e nella fase di gonfiaggio occorre porre una grande attenzione, questo è l'invito ai rivenditori di pneumatici ad operare nella massima sicurezza. Ritorniamo al mercato italiano, a proposito di questi fenomeni di illegalità di vario tipo, come ci raccontava lei, quanto è forte questo fenomeno e quanto lo si trova in un rivenditore tradizionale piuttosto che invece su rivenditori online? Ma allora, anche qui non è da criminalizzare il singolo canale distributivo, che dove ci sono la stragrande maggioranza di operatori onesti e che rispettano le norme di legge. Poi però, come in tutti i settori, anche in questo campo abbiamo delle illegalità. L'anno scorso sono stati controllati 750 gommisti sparsi su tutto il territorio italiano e sono stati individuati nel 9% gommisti gommisti inteso che facevano il lavoro del gommista. Io faccio fatica a definirli tali, questi non sono dei gommisti, sono dei soggetti che montano e smontano gomme, in genere in un luogo nascosto, senza insegna, senza avere nessuna marca di pneumatici premium, cioè stanno facendo un'operazione abusiva, e il 9% di questi esercizi controllati è risultato abusivo, cioè non aveva nemmeno la iscrizione in Camera di Commercio per operare in questo campo, ma addirittura ne abbiamo trovati di tutti di più. E attenzione, il fenomeno non è concentrato in una zona, ma è distribuito, ahimè, a macchia di leopardo in tutta Italia, cioè gente che era iscritta in Camera di Commercio per la vendita di vestiti usati o quant'altro. E poi esercita questo tipo di attività con rischi importanti, importantissimi, perché non lo dimentichiamo, gli pneumatici sono davvero l'elemento centrale di contatto fra il veicolo e la strada, e quindi la sicurezza deve essere assolutamente massima. Bene, salutiamo e ringraziamo allora il nostro ospite, il direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti, con cui abbiamo parlato oggi di illegalità e irregolarità nella gestione, nel montaggio, nella sicurezza degli pneumatici. L'appuntamento con la nostra trasmissione torna, come al solito, sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.